Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Quinta puntata. Appena sentì squillare il campanello dell'ingresso, Montalbano calò la pasta e andò ad aprire a Niccolò Zito. Ma tu sei un coglionito? Mi fai venire a Scapicollo da Monteluso a Vegata solo per sapere se io so dire una parola, che poi comunque io la parola la so dire. E allora dillo la parola. Perché ci vuole? Improcrasti, improcrasta della miseria, improcrastinabilità. No. Improcrastinabilità. Senti, Nicolò, ma com'è che a Rete Libera siete diventati tutti inglesi? L'ingegnere Luparello muore in una specie di bordello all'aria aperta, coi pantaloni calati. E voi invece di cogliere al volo l'occasione, che fate? Sentite un vero pietoso sulla faccenda. Vabbè, le cose stanno così. L'avvocato Rizzo si è precipitato dal nostro barone Rosso Filò di Baucina e l'ha pregato, facendo appello al suo spirito di cavalleria, di non parlare dei pantaloni calati di Luparello. E tu, Niccolò Zito, l'uomo che si è guadagnato la stima anche degli avversari, perché ha sempre detto quello che doveva dire, siccome il barone c'ha il 70-80% dell'emittente, che cosa fai? T'accucci. Niccolò... Sai perché? In primo luogo ti devo dire che io appartengo a una razza in via di estinzione, che è quella dei cronisti onesti. E poi ti spiego che secondo me l'avvocato Rizzo, che ha chiesto di non parlare delle circostanze della morte di Luparello, lo ha fatto per il male di Luparello, non per il suo bene. No, questo non l'ho capito. E te la spiego, innocente, perché quando tu vuoi mettere a tacere uno scandalo ne devi parlare, parlare, parlare alla radio, alla televisione, sui giornali. E se invece metti la cosa in silenzio, il silenzio comincia a parlare. Bravo, hai capito. Lo sai quante telefonate ci sono arrivate in redazione? Centinaia. E che è vero che all'ingegnere Luparello gli piaceva di farsene due alla volta in macchina, che voleva fare il sandwich con le buttane e che poi gli regalava gioielli favolosi. A proposito di gioielli, dice che ne hanno trovato uno alla mano. Di gioielli? No, a me mi sembra tutta una gran menchiata. Mangia. Io mangio. Mentre controllava lo stato di salute di una pianta grassa che gli aveva regalato Livia e che teneva sul davanzale della finestra in ufficio, Montalbano vide arrivare una macchina blu ministeriale munita di telefono, autista e guardaspalle, il quale ultimo scese per primo ad aprire lo sportello a un uomo di bassa statura, calvo, con un vestito dello stesso colore dell'auto. Cosa devo fare per farmi perdonare da lei? Per cosa? È per averla disturbata a casa sua. Ma sta scherzando, se poi la questione è, come dice lei, improcrastinabile. Prego, si accomodi. Grazie. Vengo subito al dunque. Una giovane coppia di persone peraltro rispettabilissime, nella tarda serata di domenica scorsa, si lascia andare a una sconsiderata mattana. La moglie convince il marito a portarla alla Mannara. La donna scende, ma subito dopo, infastidita dalle volgari profferte che le vengono rivolte, risale in macchina e i due vanno via. Arrivata a casa, però, la donna si accorge di avere perduto un oggetto prezioso che portava al collo, una collana di oro massiccio con delle pietre preziose. Che strana combinazione. Prego? No, mi perdoni, riflettevo fra me e me, che quasi alla stessa ora, nello stesso punto, moriva l'ingegnere Luparello. Ci ho fatto caso anch'io, sa? Cosa vuole? Scherzi del destino. Ora, io sono venuto a chiederle di restituire l'oggetto ai legittimi proprietari. Ho qui una loro delega. Sa, prima di mettere in piazza i nomi dei miei clienti, ho voluto accertarmi che lei fosse in possesso di quell'oggetto. Chi è questo Giacomo Cardamone che firma la delega? È il figlio del professore Cardamone, il nostro nuovo segretario provinciale. Ma certo che è proprio strano, eh? Come ha detto, scusi? No, pensavo che il destino, come dice lei, su questa storia ci sta giocando un po' troppo. In che senso? E nel senso che il figlio del nuovo segretario politico si trova alla stessa ora, nello stesso punto in cui muore il vecchio segretario politico, il suo acerrimo nemico. Non le pare curioso? Ora che me lo fa notare... Sì, io escludo nel modo più assoluto che fra le due vicende ci sia il minimo rapporto. Ma lo escludo anch'io, eh. Senta, di chi è questa firma accanto a quella del signor Caldamone? È quella della moglie, una svedese, una donna un po' scapestrata. Secondo lei questa collana quanto può valere? Francamente io non me ne intendo, ma i miei clienti mi hanno detto sugli 80 milioni circa. Va bene, allora guardi, facciamo così. Io più tardi telefono al mio collega Iacomuzzi, che è in custodia della collana, e me la faccio rimandare. E domani uno dei miei agenti gliela porta nel suo studio. Commissario, io veramente non so come ringraziarla. Oh, lei chiaramente mi dovrà firmare una ricevuta. Ah, certamente. È una signora di 10 milioni, che sarebbe la percentuale per chi ritrova preziosi e denari. Mi sono permesso di arrotondare la cifra della collana. Mi sembra giustissimo. E a chi devo intestare l'assegno? A Baldassarre Montaperto. Baldassarre Montaperto? Sì, è uno dei due spazzini che ha ritrovato il corpo di Luparello. Rizzo non aveva finito di chiudere la porta che già Montalbano chiamava Fazio. Novità? Sì, ha telefonato il giudice Lo Bianco. Mi ho detto che era fuori. Ha fatto bene. Senti, vai da Iacomuzzi e ti rivedere la collana subito, la riporti qui. Poi vai da Nicolo Zito a Rete Libera e gli dici di metterti per iscritto un promemoria su vita, morte e miracoli di Giacomo Cardamone e famiglia. Oh, gli dici che voglio sapere tutto, ma proprio tutto, magari le cose più strane su lui e sua moglie, che pare che sia una svedese. Come pare? È svedese, commissario. Uno stoppo di 1,80 m, bionda. Un paio di gambe e un paio di zinne che... Ancora qua stai? Vado. Appena lo vide sulla soglia, Tana, la moglie di Montaperto, impallidì e portò una mano al cuore. Ah, buongiorno signora. Che è successo? No, niente, anzi, porto buone notizie. Suo marito è in casa? Sì, sì, oggi smonto prima. S'accomodi. Grazie. La donna lo fece accomodare in cucina e andò a chiamare Saro. Buongiorno, commissario. Ah, buongiorno. Sedetevi, vi devo contare delle cose. Dove pensavate di portare vostro figlio con i soldi della collana? Volevamo andare in Svizzera, lì ci sta mia frate, ci può pigliare in casa per qualche tempo. I soldi per il viaggio ce li avete? Risparmiando all'osso qualcosa l'abbiamo messo da parte. Benissimo. Allora, oggi stesso tu vai alla stazione e ti fai il biglietto. Anzi no, vai a Raccadali. Non voglio che qui a Vigata sappiano quello che intendete fare. Non dovete dirlo a nessuno, manca la gente di famiglia dove state andando, chiaro? D'accordo, commissario, forse lei se l'è scordato. In Svizzera che ci andiamo a fare? Se i soldi che abbiamo ci bastano sì e no per tornare. No, i soldi ce li avrete. Domani a mattino un mio agente vi porta un assegno di 10 milioni. Di chi è l'assegno? Dell'avvocato Rizzo. L'avvocato Rizzo. Saro, tu devi stare tranquillo, la cosa è in mano mia. Solo che è meglio prendere tutte le precauzioni possibili. Non vorrei che Rizzo facesse come i cornuti, che ci ripensano dopo alla scordatina. 10 milioni, sono sempre 10 milioni. All'altezza di Piazza Duomo, Fazio incontrò Montalbano e gli consegnò una busta intestata Rete Libera. Va bene, Fazio, ci vediamo in ufficio. Commissario Montalbano, buongiorno. Ah, signor giudice, buongiorno a lei. Come va? Bene, grazie, bene. Mi permette una parola? Prego. Guardi che vengo adesso dal funerale, dove tra l'altro la vedova Luparello ha avuto un malore. Sono stato letteralmente assalito da autorevoli personaggi che mi hanno rivolto tutti la stessa domanda. Perché il caso Luparello non è ancora chiuso. Ha indovinato. Non vorrei che qualcuno in alto loco sa... Insomma, se non ha qualcosa di concreto in mano, chiuda la faccenda, dia retta a me. Vede, signor giudice, lei ha ragione. Ma io non riesco a farmi capace. Ma cosa vuole scoprire? L'ingegnere Luparello è morto di morte naturale. Ma lei si impunta, mi par di capire, solo perché è andato a morire alla Mannara. No. Mi tolga una curiosità. Se fosse stato trovato sul bordo di una strada, lei avrebbe trovato niente da ridire? No, no, mi risponda. No. E allora, dove vuole arrivare? Il caso deve essere chiuso entro domani. Non si potrebbe fare fino a sabato compreso. Va bene, ma guardi che se tarda sia pure di un'ora, io me ne lavo le mani. D'accordo. Buona giornata. Arrivederla. Zito aveva mantenuto la parola. Montalbano lesse il promemoria mentre si dirigeva verso la Mannara. Montalbano, ti mando il promemoria che mi hai chiesto su Giacomo Cardamone e famiglia. Come sai è figlio del professor Cardamone, nuovo segretario politico dopo la morte di Luparello. È un giovinazzo figlio di papà, ignorante come una cucuzza, che non ha mai voluto né studiare né applicarsi ad altro. È appassionato di macchine da corsa e di cavalli. In Svezia infatti ha conosciuto un meccanico pilota di rally, Ingrid Sjöström, una stanga bionda di 1,80 m. Colpo di fulmine e matrimonio. Vivono insieme da 5 anni. Lei cornifica il marito con svedese semplicità e disinvoltura. Anzi, sembra che il professor Cardamone padre anche lui ci abbia inzuppato il pane con la nuora. Spero di essere stato pettegolo come desideravi, Nicola. Per arrivare al punto che il Netturbino aveva segnato ci mise quasi mezz'ora. Dovette in certi punti arrampicarsi su cumuli di detriti. Finalmente capì che era esattamente all'altezza del posto dove Saro aveva trovato la collana. Giornali e pezzi di carta ingialliti dal sole, erbacce, bottigliette di Coca-Cola, pezzi di ferro, una trave marcita e al lato alla trave una borsa di pelle a sacco, elegante, nuovissima, firmata. Tagliò meglio la borsa. Le iniziali in metallo della proprietaria erano state strappate via, ma il cuoio ne recava ancora l'impronta, una I e una S, Ingrid Sjöström. Me la stanno servendo su un piatto d'argento, pensò Montalbano. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Peppino Mazzotta, Pietro Montandon, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Caterina Spadaro, Bruno Torrisi. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua, di Andrea Camilleri, è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it